I Ramones, i Sex Pistols, chi se ne frega chi è stato ad iniziare? È musica! Non so chi ha creato il genere, non mi importa. Quello che so è che la nostra musica è più hard, è molto più veloce e che dentro c'è molto, molto più amore, bimbo! E questo non ce lo può togliere nessuno! Reperto A. È l'unico reperto che ho, ma vi posso assicurare, funziona alla grande. Questa è Radio Bandit, il nuovo programma di musica rock per gruppi emergenti. Mandateci le vostre canzoni e seguiteci. Ciao! Questi erano i Sinkhole con Leonard Days, i Sinkhole, gruppo americano di Boston, trovato per caso ieri su Giamendo, girovagando tra le canzoni rock da poter mettere in questo programmino radiofonico in attesa delle vostre canzoni. Ho scaricato un po' di roba, devo dire che mi piacciono, mi sembrano un po' gli Asker Do, dai. Invece il riff che sentite in sottofondo proviene da Tahiti, loro sono i Taigo, ci sono pochissime canzoni su Giamendo, però le conoscevo già da un po', buoni riff, anche se cantano in francese, che non è la mia lingua preferita per ascoltare rock, anche se dopo vi metteremo qualche canzone anche in francese. Allora, in attesa delle vostre canzoni, vi mandiamo un po' di roba trovata su Giamendo. Questi sono svedesi, si chiamano Predator, la canzone si chiama TV Star. Ringraziamo moltissimo, signore e signori, e mi raccomando, andate a votare! Audition for our show, people lining up. Without the social life, this could be your slot. If you miss your chance, you will take your life. Busy means everything. Time. Team Star! un buon sound di questi svedesi Predator, un buon punk rock, anche se la voce ancora la devo ascoltare bene, sinceramente. Mi hanno convinto, ma la voce è ancora da digerire. Vediamo con i prossimi ascolti, sicuramente li rimanderemo. Quelli che sentite in sottofondo invece sono un gruppo che su Jamendo va fortissimo. Quasi 600.000 ascolti, 175.000 scaricamenti. In queste canzoni c'è un po' di tutto, dal jazz al rock, al rock metal, musica classica addirittura, dopo oppure la prossima volta la manderemo. Si chiamano Diablo Swing Orchestra, sono di Stoccolma, Svezia. Li manderemo dopo sicuramente. Adesso invece ascoltiamo un po' di ska spagnolo con il Caso Perdido. Il titolo è Sin Fronteras. Salve, sono Tracy Milford, insegnante chaperon. Beh, benvenuta a bordo. Passa le chiappe, bella. Grazie. Ehi, fermo. Dove credi di andare? Salgo sull'autobus. Sei sull'autobus sbagliato, fratello. Questo qui è l'autobus magico. utopía difícil de conseguir. Un mundo distinto donde poder convivir. Buscamos una utopía difícil de conseguir. Un mundo distinto para ti y para mí. Questi erano i Caso Perdido con Sin Fronteras, un gruppo che ho ascoltato, mi sono piaciuti subito, sanno un po' di scappi anche come testi. E niente, scaricateli, cercateveli su Jamendo, Caso Perdido scritto con la K. Invece questi che ascoltiamo in sottofondo si chiamano Louis Ling and the Bombs, gruppo francese che passeremo in seguito. Quindi aspettiamo le vostre canzoni, così speriamo dalla prossima volta di poterle mandare, così magari vi facciamo anche una compilation bellina, qualcosa del genere. Vediamo un po' che succede. Adesso invece andiamo ad ascoltarci un altro gruppo spagnolo. La canzone è dura e breve, però intensa, diciamo. Si chiamano Delitto in Medio e il titolo è Scupe. Davvero un bel sound quello dei Delitto in Medio con la canzone Scupe. Andateli a cercare su Jamendo, loro sono di Madrid. Il loro sound sembra un po' quello, ricorda un po' quello dei Boycott. Allora, adesso andiamo ad ascoltarci un gruppo che si chiamano Sunday Chocolate Club. Allora, il titolo della canzone è You Look Much Better Undressed. Non mi ricordo questa canzone, però se l'ho messa vuol dire che mi ha colpito. Allora, ricordatevi di mandare le vostre canzoni, così ve le passiamo. Naturalmente solo musica rock. È ora del rock and roll, ragazzi, forza! Sex, have you look much better undressed? So hold on. Sunday Chocolate Club, sono tedeschi di Bielefeld, andateveli a cercare se vi è piaciuta la canzone. Questa canzone non è neanche tra le più ascoltate e loro, l'ho beccata sulla radio web di Giamendo, mi è piaciuta, però non ho ascoltato altro, poi le ascolteremo. Adesso invece vi mando la canzone che vi ho detto prima, allora, quindi i Diablo Swing Orchestra con Balrog Boogie. Diciamo che si discosta moltissimo dalle canzoni che abbiamo messo oggi, però dai, merita di essere mandata. A me sinceramente la voce della cantante non piace perché c'è una voce di musica classica, però diciamo la canzone in sé è un mix di tante cose, il sound è, diciamo, è da ascoltare, è strana, dai, ascoltatevela. Davvero strani questi Diablo Swing Orchestra, strani però bravi. La voce della cantante, diciamo che non è che mi piaciuta molto, però il sound della canzone era davvero bello, anche registrato bene. Adesso vi mandiamo un gruppo francese che si chiamano, penso si legga Anima, dato che sono francesi, il titolo è Pourquoi. Con questa canzone siamo tornati al nostro sound originale. Abbiamo accantonato quel boogie, swing, jazz, che cavolo era, anche se era davvero fatto bene. E niente, sono quasi 26 minuti, quindi allora vi abbandoniamo. Quindi ricordatevi di mandarci le vostre canzoni se volete che vengano trasmesse. E niente, facciamo crescere questo programmino di musica rock per gruppi emergenti. Quindi vi saluto e speriamo ci sia un'altra puntata. A presto e rock and roll. Ciao dal bandito. Ciao. Apra la porta. Mi spiace, ma abbiamo un programma da rispettare. Sì. Apra la porta. Qual è la parola magica? Apra la porta! Qual è la parola magica? Per favore! La parola magica è rock and roll.